Volevo fare, cioè, come dire, una domanda così un po' anche per aprire il dibattito. La domanda è, diciamo, che cosa rimane oggi, a partire, diciamo, da ciò che è stato presentato, e cosa ci rimane oggi come strumento utilizzabile di questo tipo di pensiero? E cioè, la cosa, diciamo, partirebbe da un ragionamento che primo riguarda la quinta rivoluzione algerina, un testo che non avevo letto e che mi sembra molto interessante anche per questo discorso di incorporazione autocosciente del, come dire, della modernità tradita, è simile a quello che fa Gilroy in Atlantico Nero alla fine, insomma. E la seconda, diciamo, è anche quello di cui ad esempio parla Kelly per quanto riguarda le pantere nere, cioè il ricollegarsi, diciamo, un'analisi maoista, insomma, una prospettiva globale, insomma, che decentralizzasse la figura operaia in favore di questi nuovi soggetti, no? E questi due aspetti qua sono interessanti per l'oggi, forse, nel senso, qua questa è più una domanda perché non è che ne sappiamo molto, anche perché sembra che l'utilizzo che è stato fatto da Fanon, che tra l'altro, correggimi se sbaglio, però forse un sacco di militanti delle Pantere Nere io ho letto che avevano letto fondamentalmente solo il capitolo sulla violenza, Forse non te la potevo confermare. avevano, come dire, fatto passare, diciamo, questo aspetto che mirava più alla critica del materialismo dialettico e quindi questa contrapposizione netta. Però sembra che la cosa interessante oggi non sia tanto questa idea di contrapposizione netta quanto l'aspetto proprio deterritorializzante, diciamo, cioè legato alla diaspora, qualcosa appunto non a un popolo relativo a uno stato-nazione, ma a un, come dire, voglio usare il termine moltitudine, però come dire, a un, insomma, a un popolo della diaspora che è frutto di un'ibridazione culturale che è una pratica politica, no? E ora, quando Fanon, questo però non lo so, nel senso la domanda, cioè quando Fanon parla di questi nuovi soggetti rivoluzionari, includendovi tutto il sottoproletariato e così via, in qualche modo, cioè, forse può essere interessante oggi perché non fa una divisione, come dire, tecnica del lavoro, cioè non ricerca un concetto di classe, sulla base delle competenze tecniche e sociali, però in qualche modo, c'è anche per l'uso che ne è stato fatto dagli studi subalterni, dagli studi postcoloniali, indica il subalterno, quindi come dire c'è un recupero tipo di Gramsci, dell'idea di egemonia e così via. E oggi noi spesso, cioè, c'è un dibattito in atto che è molto vivo, che è proprio, diciamo, questa difficoltà, no, dell'individuare un soggetto rivoluzionario oggi che non, essendo, diciamo, sottoposto a dei meccanismi di sfruttamento biopolitici, per così dire, non per compartimenti stagni come era quello del anche della colonia, del ghetto e così via, insomma, cioè, si impone come problematica, cioè è difficile individuare oggi, diciamo, una soggettività rivoluzionaria o sfruttata se non da un punto di vista che può essere simile a quello di un certo Fanon, cioè del Fanon della quinta rivoluzione algerina, insomma, da un punto di vista di egemonia culturale e così via, insomma. Sì, ma intanto bisogna distinguere appunto quello che effettivamente Fanon dice, quello a cui approda con la sua esperienza algerina e quello che poi è stato fatto di tipo di recupero dagli studi postcoloniali, nel senso che quello che dicevi tu sull'ibridità, eccetera, no? Sul fatto che la contrapposizione manichea tra questi due soggetti in realtà presenta delle interrelazioni profonde tra i due soggetti, no? La contrapposizione è solo apparente, in realtà ci sono ibridazioni, no? È, insomma, che è tutto il discorso che ha fatto Baba, eccetera. Si può fare, però, insomma, comunque insomma, taglia una parte del pensiero di Fanon, nel senso che sono suggestioni che emergono molto soprattutto dal suo primo libro, cioè dall'analisi psicanalitica del rapporto bianco-nero, ossia il fatto che questo desiderio di identificazione del nero nel bianco e allo stesso punto il rifiuto dell'altro comportano il fatto che non ci sia una vera rottura tra i due soggetti, ma continuo scambio, cioè sotto alla rottura totale, alla contrapposizione totale c'è scambio, no? Può essere fatto, ma appunto in realtà il discorso finale di Fanon, cioè che lo vede proprio interno al suo tempo, cioè quello delle lotte di liberazione degli anni 60, è tutto un discorso di violenza rivoluzionaria, costruzione di nuove nazioni, che è precisamente collocato, nel senso lui parla di dannati della terra, un soggetto diciamo insomma molto vago che abbraccia tutti i paesi del terzo mondo, ma in realtà poi la sua riflessione è molto concentrata su le popolazioni delle varie nazioni. Cioè lui oscilla costantemente tra un'idea di insomma panafricana al continuo riportare quest'idea al fatto che in realtà non esiste nessun vero soggetto globale, perché la politica si misura su dimensioni nazionali, nel suo modo di pensare, soprattutto molto interno alla tradizione della rivoluzione francese, eccetera eccetera. E quindi per esempio, e questa è una cosa curiosa di Dannati della Terra, che probabilmente le quante parti non hanno letto tutto, a un certo punto dice chiaramente: la lotta che conduciamo noi in Africa non ha niente a che vedere con quello che si sta svolgendo negli Stati Uniti. E quindi, per dire, in realtà non esiste il popolo nero, non esistono i dannati della terra. Esistono le popolazioni sfruttate dell'Algeria, le popolazioni sfruttate del Sudafrica, tutte insieme in una lotta globale, ma ognuno nella propria nazione con le proprie problematiche nazionali e con le proprie realtà politiche concrete di quello spazio territoriale. Pensare che esista un popolo nero che va tutto nella in una determinata direzione di lotta allo sfruttamento imperialista è assolutamente irrealistico. Quindi insomma c'è questa continua ambivalenza, cioè lui lo dice proprio, nel senso, seppur c'era stata inizialmente la necessità di unirsi in un'idea di popolo nero comune portata avanti per esempio da molti scrittori americani, lui per esempio cita Richard Wright, dice a un certo punto al primo congresso di scrittori neri ci si era resi conto che c'era questa necessità di identificare una comune cultura nera, già quello successivo ci si era resi conto che cultura nera non significa un bel niente, perché i neri americani hanno problemi interni al loro tipo di modello culturale statunitense diversi da quelli degli africani, autentici africani. E quindi, e poi dice proprio testualmente: i pullman della le marce della libertà americane hanno poco a che vedere con la lotta di liberazione del Congo o dell'Algeria. Quindi insomma lui riconosce il fatto che appunto il razzismo è ovviamente un problema che attraversa mondo occidentale, terzo mondo, e che è globale, però non perde mai questo realismo politico di riconoscere il fatto che le lotte si sviluppano indipendentemente nei propri contesti. Lui ragiona su termini nazionali perché sono ancora gli anni 50, anni 60, oggi ovviamente la categoria nazionale ha tutti i suoi limiti. Quindi insomma parlare di Fanon come un possibile ispiratore di un soggetto transnazionale eccetera, secondo me ha forse poco senso. Perché non è che non esista, però appunto a volte i discorsi sulle moltitudini eccetera tendono troppo a volersi troppo globali e non sufficientemente legati alle realtà concrete, cosa a cui invece Fanon faceva continuo riferimento. E nel senso, i dannati della terra, il titolo e l'idea stessa di soggetto rivoluzionario è quasi più retorica che non effettivamente politicamente efficace o concreta, no? C'è il richiamo all'internazionale, i dannati della terra, la prima frase dell'internazionale, no? Cioè proprio come insomma anche in modo cioè come sfregio al comunismo europeo, che in quel periodo stava totalmente non si prendeva assolutamente in considerazione le lotte africane. Infatti c'è tutta una rottura di Césaire, che era stato maestro di Fanon al Partito Comunista Francese, no? Quindi forse secondo me c'è più retorica che non effettivamente politica concreta, che quando insomma Fanon ragiona poi su problemi concreti va sempre a rifinire nella categoria del nazionale, della politica nazionale. Quindi non so se... Sì, no, perché sembra che ci sia un'ambiguità per i movimenti di liberazione che sono sempre nazionale nel pensarsi globale, però come dire... Però ho capito benissimo la questione, cioè sono sempre molto ambigui, perché... Ma infatti cioè, nello stesso appunto considerazione del Black Panther Party di ritenersi interno ai movimenti del terzo mondo, è una efficacissimo a livello insomma, retorico, sicuramente importante, però poi concretamente la loro azione rimane interma alle pratiche di lotta tipicamente afroamericani e statunitensi. Per esempio, il discorso sulla violenza è pur sempre un discorso legato all'autodifesa e non all'effettiva insurrezione armata. Cioè non diventa mai, poi lì è tutta una considerazione che non si può fare, magari se non fosse stato stroncato nel 69-70 sarebbe andato avanti in forme di lotta di tipo terroristico, però in realtà già il fatto di esporre le armi, di non diventare un'organizzazione clandestina che vuole, come per esempio tutti i gruppi terroristici anche europei, tipo Brigate Rosse eccetera eccetera, loro vanno in giro con le armi e le espongono, non vogliono veramente fare l'insurrezione armata, forse perché non lo volevano fare perché sapevano che avrebbero perso, ma non ha senso, insomma Brigate Rosse lo volevano fare benissimo, non è che avevano paura di essere schiacciati dall'esercito. Poteva esserci anche una considerazione di tipo realista, che senso ha andare a sparare, ma secondo me non è questo testo di tipo realistica, è una considerazione che loro ragionano sempre in questi termini qui di autodifesa, protezione della propria comunità, ma mai vera insurrezione per la distruzione del potere politico, insomma, sostanzialmente della, insomma, rivoluzione in termini proprio di rivoluzione.